Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentornati a tutti a questa nuova puntata dal mondo della scuola, il nostro percorso che prosegue. Il saluto vi arriva come sempre da Mirko Cavallin. Abbiamo iniziato la settimana scorsa un percorso all'interno di un aspetto particolare dell'educazione legata al mondo della comunicazione. Riprenderemo e completeremo il discorso la settimana prossima. Questa settimana ci soffermiamo su un concetto un po' particolare, nuovo, ne abbiamo già parlato ma lo approfondiamo ancora. Il concetto della resilienza, parola nuova, segnatevela, ma adesso cerchiamo di capire come declinarla, come spiegarla. Ci aiuta in questo Rinalda Montani, che ha vari ruoli: presidente dell'UNICEF per la provincia di Padova, docente di pedagogia generale all'Istituto Superiore di Scienze Religiose ed è coordinatrice del MED, realtà che abbiamo già conosciuto la settimana scorsa, Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione. Intanto benvenuta e grazie per la disponibilità. Partirei dalla definizione: resilienza è una parola nuova, quindi bisogna impararne il significato. Benissimo, buongiorno. È un tema questo abbastanza nuovo, se anche se nel nostro paese un po' è studiato da una quindicina d'anni, però il binomio mass media e resilienza è un binomio complesso, però particolarmente attuale in un periodo come questo. Vorrei così fare questa nostra conversazione accompagnata da un medium, il più classico, che è quello dei libri. Quindi i pensieri miei, che proporrò sperando che siano chiari, saranno anticipati dal titolo di libri che riguardano questo tema. Il primo titolo è un titolo positivo, importante: a vivere bene si impara da piccoli. È una pubblicazione curata da uno psicologo francese, Didier Play, il quale sostiene che effettivamente una ricetta, magari ci fosse, per essere felici, non c'è. Ma ci possono, è possibile riflettere sulle condizioni che determinano il benessere, e la resilienza è una di queste. Didier scrive così: definire che cosa si intende per bambino felice e in che cosa consiste la famosa resilienza vale a dire riflettere sulla resistenza alle incognite della vita, la capacità cioè di vivere e di svilupparsi positivamente in maniera socialmente accettabile nonostante lo stress o un evento traumatico che generalmente comportano il grave rischio di un esito negativo. In altre parole, cioè imparare e insegnare anche ai bambini, anche a scuola e in famiglia, ad essere resilienti vuol dire educarli a sostenere le difficoltà che incontrano e possibilmente affiancarli nell'elaborarle in modo positivo e costruttivo. Ecco, sono difficoltà dai più vari livelli, dal livello base fino ai traumi più grossi. Sicuramente lo vediamo e lo sentiamo raccontare dai mass media, e quindi risulta ancora più urgente conoscere questo ambito dell'educazione, che è stato indagato anche a livello internazionale. Abbiamo pubblicazioni già dal 2000 rispetto a questo tema. Didier in questo suo libro ci consegna però un piccolo grande consiglio ci orienta alla accettazione. Dice: in educazione è importante, sia in famiglia che a scuola, educare i bambini ad accettare se stessi, ad accettare gli altri, ad accettare l'ambiente, il contesto nel quale vivono. Passerei ad un'altra pubblicazione sul tema, curata dalla professoressa Paola Milani dell'Università di Padova, che nel suo testo Coeducare i bambini, edizioni Pensa Multimedia Lecce, propone una guida per genitori ed insegnanti tradotta da un documento dell'Associazione degli psicologi americani. Nel testo questi suggerimenti li elenco per questione di tempo. Per costruire resilienza con i bambini sono i seguenti. Primo, creare relazioni positive. Secondo, aiutare i bambini aiutandoli ad aiutare gli altri. Ecco, aiutarli ad aiutare gli altri, questo è importante per la prosocialità. Mantenere una routine quotidiana. Altro passaggio, fare una pausa, tempo al tempo. Pensare, ecco, si può pensare che oggi siamo talmente incalzati dal tempo che non abbiamo neanche il tempo per a volte fermarci, per riflettere, per parlare, anche il tempo del silenzio. Quinto, insegnare ai bambini a prendersi cura di se stessi. Voler bene a se stessi è positivo, in modo non egoistico ma in modo generoso a partire da sé. Sesto, andare verso i propri obiettivi, sognare, avere la possibilità di sognare. Alimentare poi una positiva visione di sé. Mantenere una prospettiva di speranza, cercare opportunità di scoperta di se stessi, accettare che il cambiamento è parte della vita. Ecco, avere presenti questi suggerimenti non come una ricetta, ma proprio come modalità di vivere la nostra quotidianità. Ecco, allora li abbiamo elencati questi 10 punti, tra poco dopo la prima pausa ripartiamo da questo per proseguire il nostro approfondimento di oggi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Che cosa vuoi sapere? È meglio non sapere. Che cosa vuoi sapere? È meglio non sapere l'amore che mi chiedi. Non può finire bene. Non può finire bene. Il cielo non lo vuole, ha le nuvole in catene, non fa più uscire il sole senza vento, senza vele. Il tuo amore non si muove, è fermo come un sasso, anche il sangue nel vento. Anche il sangue, è amore in mezzo al ghiaccio, nel guanto del potere. Un cuore che vigliacco e non sa volere bene, prende le vite con un braccio, le tiene chiuse al buio, coperte da catene, coperte da catene, coperte da catene. C'è un segno corto e chiaro laggiù nella tua mano, è l'ombra del destino che come un frutto acerbo, la prima stella del mattino, rende l'amore eterno. Amore disperato, amore mai amato, croce, amore che se Dio esiste, voi, voi vi ritroverete là, là, amore. Inizia la partita, il diavolo vi sfida, gli artigli del potere che come nella neve. Una chiesa candela accesa, amore disperato, amore mai amato, amore messo in croce, amore che resiste e se Al mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, in cui stiamo parlando della resilienza, diciamo la capacità di resistere alle difficoltà e di affrontarle, che va introdotta anche nell'educazione dei bambini. Ci stiamo aiutando con la professoressa Rinalda Montani, la quale a sua volta fa riferimento ad alcuni testi e poco fa ci elencava 10 punti indicati in un testo di Paola Milani, Coeducare i bambini. 10 punti che non sono la Bibbia, non sono i 10 comandamenti evidentemente, ma sono indicazioni appunto per aiutare i bambini a sviluppare questo aspetto. Ne svilupperei qualcuno per dare anche qualche consiglio. Allora, sicuramente questi 10 consigli non sono gerarchici e ripeto ancora, contribuiscono alla costruzione della resilienza, cioè la capacità di ben adattarsi alle avversità, a un trauma, a tragedie, a minacce, a volte anche significativi stress. Allora è importante fare in modo che i bambini intendiamo la fascia, diciamo, che va dai 3 ai 12 anni, ecco, richiamo un po' la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ad esempio l'articolo 17 ricorda che i mass media hanno l'importanza di proporre esempi, contenuti, storie positive legate alla cultura locale e con forte valenza educativa, quindi un richiamo forte ai mass media su questo aspetto. Venendo ai nostri 10 punti, sicuramente il primo, creare relazioni positive tra bambini, con gli adulti. Anche oggi nelle nostre aule eterogenee, dove abbiamo rappresentato tutto il mondo, diciamo, è importante che educhiamo i bambini ad andare d'accordo, sia tra simpatici che tra antipatici. Questo capita. E quelli ci sono in tutti i continenti. Ecco, e quindi aiutiamoli quindi a mantenere, ad aiutare se stessi, a voler bene a se stessi, quindi anche una conoscenza del proprio corpo, del proprio fisico, delle proprie abitudini alimentari e l'importanza, insisto su questo, della alfabetizzazione emotiva. E, oltre a questo, e l'alfabetizzazione emotiva aiuta di conseguenza ad avere una visione positiva di sé. Che cosa intendiamo? Ci faccia qualche esempio per alfabetizzazione emotiva. Allora, a volte noi parliamo di emozione, ma non facciamo in modo che i bambini esprimano quello che loro provano. Ad esempio, quando sono felici, quando sono tristi, quando sono soli, quando sono arrabbiati. Allora, la conoscenza di questi loro stati d'animo, che sono la conseguenza anche di determinate relazioni, consente all'adulto di aiutare a distinguere queste relazioni, sia quelle belle sia quelle che provano dolore, e nello stesso tempo a prepararli ad elaborarle, soprattutto nei momenti di difficoltà. Questa è una forma di resilienza. Altro aspetto importante è mantenere una prospettiva di speranza, che questo si collega col sogno anche. Allora, spesso gli adulti chiedono ai bambini: cosa vorrai fare da grandi? L'attuale società non sempre propone loro delle situazioni positive, ecco, è l'esempio che stiamo vivendo. Questo non vuol dire illuderli, ma vuol dire consentire loro di sviluppare un pensiero di crescita che li sostenga poi nel loro percorso evolutivo, e soprattutto i primi anni, l'età che va da 0 ai 4 anni, viene chiamata anche in Inghilterra, viene definita come gli anni delle fondamenta. È fondamentale proprio che in questi anni, in famiglia e a scuola, si creino situazioni per cui il bambino venga abbia esperienze creative rispetto alla narrazione, rispetto al racconto, rispetto alla musica, rispetto a quelle cose belle della vita che le neuroscienze sostengono diventano fondamentali poi per la propensione lavorativa e anche di sviluppo della personalità di ogni individuo. Quindi lavorare in questi anni senza, premetto, volerli ingolfare a scuola di schede, di contenuti, ma di esperienze creative, positive, che li facciano star bene. Questo crea buone premesse per la propensione futura di quando quel bambino sarà adulto. Anche in mass media, penso alla televisione, ai computer, perché ormai i bambini nascono digitali, appunto questa generazione è così, anche questi sono mezzi, quindi non sono né buoni né cattivi, ma possono dare delle opportunità di crescere. C'è il titolo di una rivista dell'UNICEF che porta questa definizione: digito ergo sum. Allora bisogna avere usare con cautela, usare con cura. I bambini, quando nascono, trovano già nella loro casa gli schermi, lo schermo della televisione, lo schermo del computer, e quindi è importante già dai primi anni educarli a coabitare con questi mezzi senza diventarne succubi o passivi, per cui l'avvicinamento alla tastiera, al video, può essere tanto condizionante se il bambino è lasciato da solo, e soprattutto nei primi anni di vita. Nei primi anni di vita i bambini assorbono come spugne, non hanno bisogno di essere appiccicati al video e al computer, anche se loro sono molto attirati, ma possono giocarci, e giocando, ormai c'è anche una discreta esperienza su questo, li si può avvicinare al mezzo perché lo usino come opportunità per imparare, per divertire, per divertirsi e per esprimersi. Avendo anche poi la capacità di staccarsene al momento opportuno. Ultima pausa, poi torniamo per completare il discorso di oggi. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa puntata particolare, forse impegnativa, ma insomma a noi piace anche fare così, di questa rubrica dal mondo della scuola. Stiamo parlando di resilienza, una capacità che va sviluppata nei bambini, andrebbe sviluppata anche negli adulti, ma è meglio cominciare anche dei bambini, di resistere alle difficoltà, di affrontarle in modo positivo. Con la professoressa Montani stiamo cercando di sviluppare questi concetti. Lei prima ci citava i traumi possono essere di vario genere, può esserci un compagno di classe che fa un dispetto e quello non tutti magari sono capaci di affrontarlo, può esserci un trauma nella separazione dei genitori e quanti ce ne sono purtroppo nella nostra società, ci sono traumi che anche la storia recente ci ha raccontato e penso all'Olocausto degli ebrei. Lei ci ha già citato alcuni libri, Vivere bene si impara da piccoli, Coeducare i bambini, c'è un terzo titolo che vuole proporci. Ecco, questi titoli ci aiutano a comprendere un po' lo sviluppo storico degli anni 90, anche in chiave di educazione e di forti traumi. Sempre curato dalla professoressa Paola Milani e da Marco Ius, un titolo interessante è Sotto un cielo di stelle, delle edizioni Raffaello Cortina, In questo libro troviamo la ricerca di Marco Jus fatta attraverso le testimonianze di sopravvissuti alla tragedia dell'Olocausto. Allora a queste persone sono state fatte delle interviste per comprendere quali risorse siano state per loro determinanti per sopravvivere ad una tragedia di questo tipo. Qui si parla in modo molto forte di resilienza e da questi esempi possono essere tratti degli spunti da poter poi ottimizzare in chiave educativa e di quotidianità sia per adulti che per bambini. Per comprendere meglio questo approccio posso consigliare un ultimo lavoro, un albo dal titolo Il pentolino di Antonio, delle edizioni Kite di Piazzolla sul Brenta. Qui c'è la storia, appunto, una storia di resilienza. Questo pentolino che accompagna un po' la storia del protagonista, che diventa un peso, che diventa fastidioso, dove lo si colloca, ecco, un po' ognuno di noi ha il suo pentolino che a volte lo imbarazza, che a volte gli crea difficoltà nello stare con gli altri, nella vita. Ecco, a partire da questa storia immaginaria è collegato all'albo illustrato un quaderno, direi estremamente interessante per genitori, per educatori, dal titolo Educazione, pentolini e resilienza, percorsi e pratiche per coeducare nella prospettiva della resilienza a scuola. Questo quaderno è scritto in modo molto semplice, ben documentato, accessibile direi a tutti, e si trovano esempi e piccoli esercizi per poterci sperimentare ad essere tutti un pochino più resilienti, in modo da governare le prove della nostra quotidianità in modo autonomo. Questo vuol dire anche voler bene a se stessi, come si faceva riferimento prima. Questo vuol dire anche imparare a stare con gli altri con modalità prosociali, anche a ricevere dagli altri quello che può essere un aiuto, un segno di amicizia, ma soprattutto fare attenzione ai propri limiti. Ognuno di noi ha limiti. Questi limiti non ci devono far sentire persone limitate, ma persone forti che cercano di conoscere se stesse, compresi i propri limiti, per andare oltre, per diventare cittadini attivi e possibilmente felici. Chi si ferma è perduto, diceva un antico proverbio. Allora, ringraziamo la professoressa Rinalda Montani per la disponibilità, buon lavoro per tutte le sue attività. Grazie a voi e siate felici per quel che è possibile. Grazie a voi per averci seguito, la rubrica Dal mondo della scuola torna fra 7 giorni alla stessa ora. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.